Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Il colpo vincente di Del Piero, quando ormai la Juventus sembrava non crederci più o crederci meno di prima, comunque, fa passare in seconda linea la vera impresa di giornata, che è quella firmata da Lecce a Catania negli ultimi minuti. E poi la vera sorpresa, che è la terza sconfitta consecutiva del Napoli, stavolta in casa con l'Atalanta. Ma se il colpo di Del Piero riguarda in fondo soltanto due squadre, cioè Juventus e Milan, quello di Michele invece fa venire i brividi a, non dico a metà campionato, ma quasi, comunque a molte squadre che pensavano di essere salve e ad altre che già tremavano prima, a cominciare da Genoa e Fiorentina, che adesso hanno qualche ragione in più molto seria di preoccuparsi. Pensate che se lo scorso sabato la Fiorentina non avesse compiuto quell'impresa a San Siro, o a scelta non si fosse suicidato il Milan, già adesso Fiorentina e Lecce sarebbero a pari punti al terzultimo posto in classifica. È indubbio comunque che il Lecce sta risalendo a velocità doppia rispetto alle altre e che quindi ci sono seri motivi di preoccupazione per, non so, il Genoa per esempio. Il Genoa non vince dal 5 febbraio, nelle ultime 10 giornate, e qui comincio a citare i numeri del lunedì, perché il fatto che oggi sia giovedì non significa nulla, né essendo una puntata post campionato, e quindi non significa nulla anche ai fini dei vostri interventi in diretta all'800 24 00 24. Dicevo che in questo anomalo lunedì i numeri dicono per esempio che il Genoa non vince dal 5 febbraio, che nelle ultime 10 partite ha totalizzato 6 punti, e cioè 6 pareggi e 4 sconfitte, ed è lo stesso ruolino di marcia che lo scorso anno facciano i dovuti scongiuri genovani, stava tenendo chi se non la Sampdoria. Se invece parliamo di vertice, la Juventus ha già stabilito un record con ieri, e cioè quello di imbattibilità nei campionati con i 3 punti a vittoria, che sono partiti nel 94, ma anche nei campionati a 20 squadre, che era detenuto fino a ieri ex aequo con l'Inter 2006-2007 e che adesso invece appartiene soltanto alla Juventus. Era un anno, più di un anno, 20 marzo 2011, che Del Piero non segnava un gol vittoria, allora fu un 2-1 al Brescia, e ieri sera l'assist di Pirlo per il magnifico gol di Pepe in rovesciata è stato l'assist numero 11 del campionato, ma non è primato stagionale perché Miccoli con 12 è ancora davanti di uno. Se parliamo di serie nere, c'è quella del Napoli, dicevo. Il Napoli nelle ultime 5 partite ha ottenuto 2 pareggi prima e 3 sconfitte consecutive poi. L'ultima volta che aveva perso 3 partite di fila nel 2009, quelle sconfitte erano costate il posto a Reia, sostituito poi da Donadoni. Allora, i protagonisti della serata, cominciando da Del Piero. Siamo nelle battute finali, il fatto di non mollare, non voleremo né noi né loro. Adesso è una guerra di nervi, una guerra di stanchezza, di lucidità, di tante cose. Noi abbiamo vinto, siamo bene e pensiamo alla prossima. Io sto bene, di testa e di gambe, e penso alla prossima partita. La prossima partita è a Cesena domenica, mentre invece il Milan giocherà in anticipo sabato pomeriggio a San Siro alla stessa ora di Milan-Fiorentina, quindi giusto così per avvisare i naviganti, sabato pomeriggio appunto alle 18. Gli altri protagonisti di giornata, che sono quelli della banda del Lecce, la banda Cosmi, che negli ultimi minuti ha ribaltato il risultato a Catania. Nessuna persona razionale poteva aspettarsi un epilogo così movimentato, insomma, come è stato. Insomma. A questo punto per noi alzare la quota salvezza è un vantaggio perché adesso veramente non può più sbagliare nessuno. Purtroppo noi per primi, perché ancora la situazione di classifica ci vede terzo ultimi, quindi a oggi bisogna solo rimontare ancora. Queste sono vittorie che ti fanno tanto felice, però insomma sono fisicamente difficili da sopportare. Ci sarà poco tempo per poter essere troppo felici. Non so se ha già in animo, scrive Giuseppe da Vignola, di affrontare il tema Catania-Lecce. Personalmente sono rimasto stupito, e uso un eufemismo, che un portiere si sia fatto espellere a quel modo. E altrettanto mi ha stupito il seguito, con Lodi che diventa portiere e ci mette qualche minuto a infilarsi i guantoni, tant'è vero che quando il Lecce riconquista palla e va in contropiede, lui è ancora lì che armeggia col guantone sinistro. Poi gli tirano addosso e lui rimette la palla a un metro per Di Michele, che appoggia a rete. Ma senta Giuseppe, io Io non so che dire, nel senso che un tempo queste cose le avrei rigettate al mittente con sdegno. Adesso, sinceramente, ne abbiamo viste e sentite tante. E quindi capisco che una dinamica come quella conclusiva di ieri sera a Catania possa far riflettere, perché il Lecce a un minuto o due dalla fine sta ancora perdendo 1-0, perché il gol del pareggio è regolarissimo, quindi non si capisce da dove il portiere possa venirgli in mente che c'era fuorigioco rispetto alla linea del pallone. È Corvia che entra a appoggiare di piatto indietro di 5 metri, quindi è assolutamente perfetto, anzi straperfetto. Però protesta, si fa ammonire per proteste e poi, una volta ammonito, applaude l'arbitro e si fa espellere. Dopodiché sì, insomma, la maionese impazzisce, come si dice ogni tanto in questi casi, e in porta va un giocatore di campo che respinge male un pallone e arriva Di Michele. Però è anche vero che in precedenza il gol del Catania era quasi certamente irregolare, perché era in fuorigioco Berghesio di testa, non era facile da beccare, ma era comunque irregolare. Il Lecce aveva già preso 2 pali nel corso della partita, pur avendo giocato non brillantemente per una lunga fase come ci ha abituati negli ultimi tempi, era comunque arrivato 2 volte vicino alla porta. E poi alla fine, indubbiamente, quelle sequenze, se non fossimo sotto suggestioni malefiche da quasi un anno ormai, l'avremmo probabilmente presa in un'altra maniera. Così, in effetti, un minimo di occhio critico ti costringono ad averlo, e sinceramente non è colpa nostra. Riccardo ha chiamato già da Treviso, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini, complimenti per la trasmissione. Niente, volevo fare questa considerazione. Adesso c'è Del Piero che verso fine campionato sta ritornando, tra virgolette, in forma. Io ho l'impressione, da juventino, adesso ho premesso, sono juventino, che all'inizio ho cercato di non farlo giocare in maniera tale che quando fosse andato via a fine campionato la situazione era più tranquilla per la dirigenza, e magari abbiamo perso dei punti come col Chievo, col Bologna, autolesionistici. Ora che sta facendo questi numeri qua, io non so la dirigenza come potrà dire che non è più utile. Anche perché alla fine se non segna lui non so chi possa segnare. Vedi con l'Inter, vedi anche a Napoli che comunque è entrato, comunque ha fatto fare il gol a Pogliarella. Ed è una persona che onestamente, da un punto di vista intellettuale, morale, è una persona degnissima. Al Milan facevano i contratti in bianco, la Juve non riesco a capire perché non ne facciano questi giocatori che dovrebbero essere presi ad esempio da tutto il movimento. Ecco, tutto questo mi fa sorridere il fatto, cioè ho quasi paura che Conte sia da un lato contento, dall'altro dica porca miseria, ancora mi è decisivo, come facciamo a mandarlo via? Ma più che Conte semmai Agnelli, penso io, ma non è tanto quello. Io non credo in realtà che le cose stiano così. D'altra parte, lei si chiama Riccardo e è intervenuto a Treviso dicendo questo. Matteo Cavallucci mi scrive da Pescara: è mai possibile che ogni qualvolta il 37enne Del Piero realizza un gol ci troviamo di fronte a 3 giorni di celebrazioni, eccetera eccetera, e va avanti? È mai possibile che il povero Caressa si renda, debba andare avanti per 3 minuti a rendere omaggio e tributo alla storia se capita Del Piero segnare la punizione? Si può vedere in un senso o nell'altro. Io dico che continuo a pensare che quella mossa di Agnelli, così pubblica, così plateale, fosse sbagliata, ma continuo a pensare che l'impiego invece col contagocce di Conte su Del Piero sia quello ideale. Conte sta facendo nel 2012 quello che Vic Palek fece a metà degli anni 70, vinse 2 campionati di fila grazie ai gol di Altafini che entrava negli ultimi minuti, come sta facendo Del Piero adesso, e con la sua classe, il tuo talento e tutto, decideva certe partite che diversamente non si sbloccavano. Guai, secondo me, a pensare, e infatti proprio a Conte non gli attraversa nemmeno l'anticamera del cervello, guai a pensare di puntare su Del Piero al primo minuto. Quindi vede che il suo discorso poi ne esce abbastanza ridimensionato, almeno a parer mio. Sentiamo Conte. C'è sicuramente da parte nostra un po' di rammarico, anche un po' di rabbia, perché non dimentichiamo che quest'anno partite dominate e non chiuse alla fine sono arrivati dei pareggi. Questo purtroppo è una cosa che è accaduta di nuovo. Siamo stati bravi, secondo me abbiamo giocato un'ottima partita, perché alla Lazio abbiamo veramente concesso quel cross e tra virgolette ci hanno fatto gol. Va bene così perché torniamo in testa, non era facile, però un altro passettino in avanti. Vero, e di passettini adesso ne mancano 6, non sono pochi, ma sono sempre ce n'è sempre comunque uno di meno. Qualche protesta di Reja, ma l'espulsione anche di Reja, ma ormai è un classico, perché Reja negli ultimi tempi sono più le volte che viene espulso che non le volte che riesce a restare in campo. La spiegazione di Mazzarri per questo crollo verticale del Napoli. Abbiamo visto, abbiamo retto a livello fisico proprio un tempo, siamo stanchi. Momento difficile da questo punto di vista, e bisogna. Ora c'è un'altra partita dopo 3 giorni, probabilmente abbiamo pagato anche lo sforzo contro la Lazio. Cosa c'entra il ciclo? Si sta giocando, ci sono 6 partite, c'è la finale. A 6 giornate dalla fine si parla di cicli. Io caratterialmente questi ragazzi danno tutto, ma la sento di dire questo. Siamo a un momento di appannamento, siamo stanchi. Marcello, chiamato da Milano, buongiorno. Caro Garanzini, buongiorno, è sempre un piacere interloquire con lei. Lei sa che sono milanista, credo che ieri la Juventus abbia risolto una partita difficilissima, meritatamente, ma credo che sia il segnale che vincerà lo scudetto. E tutto sommato penso che lo meriti anche perché il Milan l'ha sconfitta con la Fiorentina che abbiamo visto ieri quanto vale, è stato veramente un suicidio vero e proprio. Volevo anche dire da milanista, mi costa molto Garanzini, che tutto sommato che sia Del Piero a decretare forse lo scudetto, un signore come Del Piero che io celebrerei sempre, perché non so quante persone sarebbero state così umiliate come è stato lui quest'anno, e ha giocato sempre con la professionalità di un vero campione. Quindi proprio da milanista dico complimenti a Del Piero. Ultima cosa, Garanzini, chiaramente ho cambiato canale, ho visto Real Madrid e ogni tanto Ronaldo mi fa venire dei grandi dubbi, ma è meglio Ronaldo o Messi, Garanzini? E cosa sarebbe una squadra con loro due insieme? Ma io preferisco vederli uno da una parte e uno dall'altra, perché almeno sono due squadre che possono avere dei cose. Poi penso, io credo che siano troppo protagonisti assoluti e vogliano esserlo giustamente, ad ogni costo per poter coesistere. Io le dirò che ieri sera ho dato un'occhiata a un magnifico Real Madrid dopo finito il campionato italiano e questa larga vittoria che a un certo punto era in pericolo, no? contro l'Atletico nel derby. Prima avevo visto lo scontro decisivo per il titolo tedesco, vinto dal Borussia anche abbastanza fortunosamente, direi, sul Bayern di Monaco. Soprattutto ho ammirato la saldezza di nervi di Robben, perché Robben a pochi minuti dalla fine sbaglia il calcio di rigore, ma proprio mancano 5-6 minuti alla fine, il Bayern si conquista un rigore, se lo conquista lui e non c'è nulla da discutere sulla legittimità del rigore. Robben va sul dischetto, calcia male, il portiere glielo blocca e Robben viene inseguito e investito da un energumeno, ma un energumeno totale del Borussia di Dortmund, di cui ho dimenticato il nome, ma da qualche parte l'ho scritto, credo si chiami Subotic, che comincia a inveire, a insultarlo a un centimetro dal naso, dicendogli di tutto, ma in maniera evidentemente così nevrotica, no? ma pazzesca, cioè una cosa che uno normale, no, non una persona scorretta o cosa, uno normale prende, gli tira un cartone e cerca di devastargli il naso facendogli più male possibile. Beh, già hai sbagliato un rigore, sei lì con lo sguardo perso nel vuoto, hai sbagliato un rigore decisivo e hai probabilmente condannato la tua squadra a perdere il campionato. Arriva questo demente che ti insulta in quella maniera così, così violenta, senza una ragione al mondo, perché tra l'altro il rigore c'era, ripeto, e nessuno di chi l'ha subito ha fiatato, e Robben invece non ha fatto una piega, è rimasto assolutamente col suo sguardo perso nel vuoto senza reagire. Mi è sembrato un episodio osceno da una parte e bellissimo dall'altra per il comportamento di questo grande olandese. Michele, provincia di Venezia, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno, starei ore e ore ad ascoltarla, un piacere. Volevo due domande veloci. Una è se secondo lei questa Juventus può aprire un ciclo tipo la prima Juve del Lippi degli anni 95-96. E secondo, se secondo lei è stato più bello il tiro di Vidal o la parata di Marchetti. Grazie e l'ascolto per radio. Ma insomma, direi tutte e due le cose. Sia il tiro che la parata. Sui cicli ci andrei piano. Io credo che Credo che se questa domanda lei la facesse in questo momento a un personaggio della Juventus, da Conte in giù o in su, credo che le risponderebbe: senta, cominciamo a vincere questo campionato, poi ai cicli eventualmente ci pensiamo. I cicli sono sempre... Non è come dirlo, aprire un ciclo. Qualche presupposto potrebbe esserci, altri potrebbero invece non esserci. E comunque andiamoci piano a queste fughe in avanti. Fabrizio Alessandria, buongiorno. Grazie dottore, buongiorno. Torna lei. Facciamo in merito a questo. Stamattina sulla Gazzetta mi è capitato di leggere un'affermazione di Malesani dicendo che lui vede il bicchiere mezzo pieno. Ora, io mi sto domandando, dopo gli ultimi due incontri con le ultime della classe, quindi scontri diretti, non capace di mantenere un vantaggio ottenuto così come l'ha ottenuto, o ha bisogno di un oculista o c'è qualcosa che non capisco dietro? Lei cosa ne pensa? Io penso che Malesani sia tornato da due giornate, abbia trovato un Genoa messo oggettivamente peggio di come l'aveva lasciato, non che quello che lui aveva lasciato a forza fosse un gran Genoa, ma insomma diciamo che la classifica se non altro era meno preoccupante, e quindi adesso forse non sa nemmeno bene che cosa dire, e quindi insomma, mi pare che quel che può dire lui lasci un po' il tempo che trova. Certo che se una squadra che a questo punto è pesantemente invischiata nella lotta per salvarsi ha la possibilità di giocare prima a Novara e poi a Cesena, e poi contro il Cesena in casa, cioè contro le due squadre già retrocesse, no? Che dovrebbero essere, io non dico che debba regalarti nulla, ma insomma dovrebbero essere le due partite più facili comunque, e rimedia due pareggi, insomma, mi pare che da preoccuparsi ci sia seriamente, quindi capisco anch'io che il bicchiere mezzo pieno possa fare sensazione, a meno che quel bicchiere mezzo pieno non gli serva per berci su, insomma, no? e provare a dimenticare come è conciato il Zena. Francesco ha chiamato da Frosinone, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Allora, senta, io volevo fare una domanda sulla mia squadra, che è il Napoli. Dunque, due mie osservazioni. Secondo lei è errato il concetto dei quattro tenori e non tre, come è avvenuto, sono avvenute le ultime due partite fatte dalla squadra? Insomma, visto l'esito non mi sembra molto favorevole. E poi, secondo lei, se l'utilizzo di Pantev può essere in un certo qual modo, ma anche dovuto all'età, insomma, accostato all'utilizzo di Del Piero, cioè è il caso che Pantev inizialmente al campionato e anche in Coppa è stato utilizzato al termine della partita e lui risolveva, mi sembra un po' la stessa questione Del Piero, invece da quando è utilizzato dal primo minuto mi sembra che l'esito non sia felice. Grazie, attendo in linea. Però no, che mi sembra possa cambiare un po' la situazione, le carte in tavola, cioè il giorno che Conte avesse bisogno di per ragioni di organico avesse bisogno di Del Piero all'inizio, non è che non lo può schierare dall'inizio, probabilmente Del Piero non riuscirebbe a essere così decisivo come invece è stato ieri. Poi parliamo un attimo anche di Marchetti, già che ci siamo, perché formidabile Del Piero a capire, a cogliere l'attimo, forse a guardare e a calciare con l'occhio alto eccetera, quindi questo non toglie quello che sto dicendo non toglie nemmeno lo 0,1% di merito a Del Piero, però complimenti a Marchetti e a come, no, e a come si fa prendere. Poi lui dice che non ha sentito il fischio arbitrale, insomma, se non ha sentito il fischio arbitrale fate visita, cioè qualcosa di strano c'è, voglio dire, nel senso che Marchetti era stato fino a lì il migliore in campo, indubbiamente, sia pure in quella maniera un po' avventurosa che Marchetti ha sempre. Marchetti, se lo notate, è uno di quei portieri che ha sempre l'occhio sbarrato, a me non mi danno sicurezza, no? Perché è l'occhio sbarrato proprio, sempre, in ogni situazione, prima, durante e dopo la parata. Lì l'occhio lo sbarra dopo, quando la palla la vede dentro e non ci si prova nemmeno, insomma, e c'è un errore palese di piazzamento, c'è un mezzo passo verso sinistra, qualcuno dice che ha fatto la finta Del Piero, ma sì, va bene, Del Piero, ripeto, ha fatto il 100%, Marchetti in quella situazione ha fatto poco, ecco. Salvo Catania, buongiorno. Buonasera, grazie per lo spazio. Io desideravo farle una domanda, era solo un chiarimento, non influisce assolutamente sul risultato, sul modo di come si è svolta la partita, assolutamente. Però siccome parlate del fuorigioco del Catania, del Lecce sul primo gol, no, il piatto di corvia di chi è stato è sicuramente che non è fuorigioco, ma è prima, non so chi è il giocatore che parte, credo che possa considerarsi in fuorigioco. Lo hanno fatto vedere così poche volte. Che non è in fuorigioco. Non è in fuorigioco. No. Mi interessava sapere, anche perché sa, nelle televisioni alle volte, come diceva uno ascoltatore poco fa, si parla centinaia di volte di altre cose e invece l'hanno fatto vedere pochissime volte, almeno io l'ho visto pochissime volte. Per cui pochissime volte. Ma non le basta già le volte? Come sarebbe a dire l'hanno fatto vedere pochissime volte? Ma lei... No, ma non lei, Eris, ma non le basta ancora quanto ci trulliscono facendoci rivedere i gol centinaia di migliaia, di milioni di miliardi di volte e ancora li vorremmo rivedere di più? Vabbè, sentiamo come va la borsa. C'è il pieno sul display, con prenotazioni da Alessandria, Macerata, Napoli, Venezia, Milano attualmente. Pasquale, Alessandria, buongiorno. Dica. Granzini? Buongiorno. Sì, buongiorno, Pasquale d'Alessandria. E due. E quindi, pronto, dica Pasquale. Sì, mi scusi. Allora, prego. Molto semplicemente, io ho fatto riferimento così nella comunicazione iniziale a un episodio Sivori-Charles, no? Allora, immagini in bianco e nero, io ero giovanissimo probabilmente, comunque le ho viste e le ho riviste più di una volta quelle immagini. E mi viene in mente l'episodio Balotelli. Non so se i compagni di squadra, i suoi compagni di squadra, in qualche modo l'hanno rimproverato per il gesto che ha fatto. Questo ragazzo ha avuto tutto dalla vita, tutto dal mondo, probabilmente non ha avuto un compagno di squadra che l'ha preso nello spogliatoio una volta per tutte e gli ha detto: guarda che noi siamo una squadra. No, Pasquale, è fuori strada. Lei ricorda un episodio memorabile e tra l'altro non unico, no? in cui davanti alle mattane di Sivori fu il suo compagno, il suo partner e grande amico John Charles a rimetterlo sulla strada della ragione, una volta anche con una sberla in campo. Sono cose che accadono e certamente se accadono a livello di Sivori e Charles fanno sensazione, fanno epoca, tant'è vero che lei se ne ricorda oltre mezzo secolo di distanza. Con Balotelli ci ha provato tutti, con le buone e con le cattive, anche con le cattive, da Ibrahimovic, ha cominciato da Materazzi, ha cominciato insomma da tanto tempo fa e ci hanno provato anche quest'anno al City. Al momento il ragazzo continua a essere non pervenuto ugualmente. Marco, provincia di Macerata, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Dunque vorrei fare un plauso al giovane leone atalantino, mio concittadino Giacomo Bonaventura, per l'eccellente prestazione di ieri sera contro il Napoli. Sì. E purtroppo questo ragazzo gioca, lo fanno giocare un po' poco, ecco, io volevo sentire da lei un suo giudizio sul giocatore, ecco. Faccio fatica, Marco, sinceramente ieri ha fatto un bel gol, se lo fanno giocare, cioè già gioca nell'Atalanta, che per carità è Serie A, ma non con tutto il calcio che c'è si fa un po' di fatica, no, a seguire tutto nel dettaglio. Lei poi oltretutto segnala che gioca pure poco, insomma, lei capisce. Ieri sera le dirò: bello quel gol, mi ha colpito di più il gol di Bellini, se devo dire un gol di un atalantino, perché Bellini è un capitano, è un simbolo dell'Atalanta. Ha provato in tutti i modi a non farlo quel gol, perché si è visto benissimo che non è il suo mestiere, e poi all'ultimo momento si è riuscito a arrampicarsi in questa mezza sforbiciata improbabile, però è stata molto efficace. Insomma, sinceramente mi ha colpito più Bellini di Bonaventura ieri sera, ma evidentemente non è una valutazione tecnica, è una cosa di suggestione legata a ieri. Franco, Napoli, buongiorno. Salve, a proposito di Napoli. Allora, io quello che penso, non so se può trovare il suo consenso, il Napoli è comunque fondamentalmente una squadra dalle prestazioni incredibili o dalla completa opacità, e comunque in questa stagione il Napoli, io credo che diciamo che il suicidio di Londra l'abbia completamente segato. Perché da quel momento in poi il Napoli non c'è assolutamente più. E allora a questo punto, visto che tutti i vari tenori, controtenori, eccetera, eccetera, sono praticamente cotti, perché Mazzarri non prova a inserire i vari Vargas, i vari... Bah, io... perché voglio dire, ecco, Vargas per esempio l'ha quasi bruciato nella prima partita, facendolo entrare erroneamente, perché poi Mazzarri non è esente da errori, perché purtroppo Mazzarri spesso, diciamo, o fa troppo, cioè fa un turnover assurdo, oppure non fa il turnover perché ha paura, non so per quale motivo. Non so, guardi, io anche qua, no? Si può vedere sempre da tante angolazioni e la verità ha sempre mille facce. A me sembra che quando le alternative nel Napoli vengono chiamate in causa, sta gran figura, qualcuno nel campo anche ieri sera, sta gran figura non la facciano. Allora, queste alternative valgono poco, oppure queste alternative non vengono tenute sufficientemente sulla corda quando non è il loro momento e quando l'occasione deve soltanto venire, e quindi di nuovo la colpa è loro, cioè loro della colpa, la responsabilità è loro dei giocatori, o è invece di chi li guida, di chi li dovrebbe alternare di più, di chi dovrebbe riuscire a tenerli, a motivarli un tantino di più anche non facendoli giocare. Ammetterà che sono discrete domande queste, però lei parla di suicidio di Londra, ha parlato, se non ho capito male, di suicidio di Londra, ecco, questo direi che è davvero un po' eccessiva come espressione. Napoli a Londra non si è affatto suicidato, è che a un certo punto il Chelsea è stato più forte, molto più semplicemente. Lorenzo, provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Io volevo fare non solo i complimenti a lei e alla sua trasmissione, ma innanzitutto a tutta Radio 24, che state facendo, a mio avviso, un lavoro veramente buonissimo e soprattutto molto molto utile. Poi entrando poi nel merito della mia telefonata, riguardo a Del Piero, io essendo uno juventino, io sono propenso a perdonare lo scivolone del giovane Agnelli, perché è giovane, è stato probabilmente anche mal consigliato, si deve fare le ossa, c'è tutto un entourage di persone che non è che non penso che tutte le decisioni le prenda lui. La cosa che mi darebbe veramente molto molto fastidio da juventino sarebbe di non rivedere comunque Del Piero in società una volta appesi gli scarpini al chiodo. Allora sì, mi darebbe veramente un gran bel fastidio. E Del Piero giustamente non ha più nulla da dimostrare a nessuno se non a se stesso. Gli Agnelli sono passati tutti, nel frattempo sono passati anche altri personaggi comunque. Vabbè, adesso mi sembra che la Juve passa e Del Piero resta, mi sembra, insomma, ma che siamo leggermente sul paradosso, no? Io capisco, per carità, la fidelizzazione rispetto ad un personaggio, rispetto a un grande personaggio come Del Piero, ma in genere si sente dire in questi casi, in toni magari giustamente rassegnati e giustamente amareggiati, i Del Piero piuttosto che i Boniperti, piuttosto che mi dica lei, passano, la Juventus resta, in genere si sente così, no? Invece no, qui sono gli Agnelli e la Juventus che passa e Del Piero che resta. L'importante è esagerare, diceva Iannacci, se non ricordo male. Fabio Milano, buongiorno. Buongiorno, complimenti Garantini per la trasmissione. Io volevo porre l'attenzione su un tema molto semplice. Con il prossimo turno di campionato, se non sbaglio, dovrebbero essere 8 le giornate in cui il Milan gioca prima della Juventus. Allora, questo qua io volevo porlo come tema per una riflessione. Cioè, è corretto secondo lei che due squadre di vertice che si contendono la posta dello scudetto debbano avere, anche a livello di pressione, se non vogliamo banalizzare sull'orario, il momento della partita, questo tipo di trattamento? E soprattutto solo, cioè, a senso unico, nel senso è sempre la stessa squadra che gioca prima dell'altra? No, sempre non mi pare che sia così, ma in ogni caso a loro sta bene, cioè, a loro l'importante è giocare in orari sfalsati perché pigliano più soldi, cioè, io non capisco perché noi dobbiamo farci di questi problemi noi quando a loro va bene. A loro non andrà bene, mi pare di aver letto, alla Juventus non andrà bene, o non andrebbe bene, perché era prima di Milan Fiorentina, alla Juventus non andrebbe bene giocare prima di Milan Inter, e cioè giocare il pomeriggio mentre Milan Inter sarà invece posticipo serale. campione secondo il calendario già fissato, ma su tutto il resto, se va bene a loro, ma perché non dovrebbe andare bene a noi? Magari non va bene perché ci tengono davanti alla TV o ci costringono ad andare allo stadio negli orari più impossibili senza comunicarcelo per tempo, eccetera. Mille discorsi già fatti un milione di volte. E poi ancora, e questa credo che sia la domanda finale, conviene giocare, è un danno o è un vantaggio a scelta, giocare prima o giocare dopo? Lei è certo che ci sia un vantaggio o uno svantaggio nel giocare prima piuttosto che nel giocare dopo, o nel giocare dopo piuttosto che nel giocare prima? Dato che in dottrina se ne discute da anni, ma non si è ancora arrivati, no, a una vera conclusione scientifica suffragata dai fatti, ma perché ci dobbiamo come dire, infliggere anche queste questioncelle di rana caprina? Strade. Il 12 aprile di Nicola Filippone. Sembra ieri. 12 aprile 1978. Coppa dei Campioni, semifinale di ritorno. La Juventus di Trapattoni deve difendere a Bruges il sofferto 1-0 dell'andata, maturato a pochi minuti dalla fine grazie a Bettega. La sfida in terra belga però si rivela subito molto complicata. Il Bruges pareggia il conto dopo soli 3 minuti con Bastens. La squadra di casa continua ad attaccare, ma trova sulla sua strada un grande Dino Zoff. Anche la Juve ha alcune occasioni, che però non riesce a concretizzare. Si va ai tempi supplementari e la gara sembra ormai avviata verso i rigori, ma a 4 minuti dal termine Van der Eyken trova sotto misura la deviazione vincente, che conduce il Bruges al traguardo storico della finale di Wembley, dove i belgi si arrenderanno al Liverpool. Van der Eyken, che poi, se non ricordo male, venne a giocare nel Genoa in Italia. Era un bel centrocampista mancino, se non ricordo male. Luis da Treviso scrive: fammi un favore, la prossima volta che qualcuno dice complimenti per la trasmissione gli butti giù il telefono. Luis, dopo mi danno il presuntuoso, il villano rifatto, mi danno tutto. Io sono 12 anni che lo voglio fare, per tanti anni l'ho detto, ogni tanto. Adesso mi sembra, non lo so, forse perché non ne puoi più, no? Perché ti sfiniscono. Comunque ci proviamo ancora. Facciamo quest'ultimo tentativo. Aboliti i complimenti per la trasmissione, per cortesia. Consideriamoli sottintesi, se vi fa piacere. Stefano da Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno signor Granzini. Dica. Ascolti, molto semplicemente. Bravo, Piero, bravo. In ottica nazionale, secondo lei è un'eresia parlare in questo caso oppure è una cosa fattibile? E un'ultima cosa, giornalisticamente parlando, apprezzo moltissimo l'intervento di Beccantini nella sua trasmissione, ma mi piacerebbe sentire anche, parlando dei punti di diamanti di cui lei si può servire, anche di Gianni Mura, che considero insieme a lei e a pochi altri degli strumenti eccezionali per scardinare un po' questo biscardismo che ci pervade. Gianni, televisione, eccetera, eccetera. Gianni ogni tanto interviene, poi per ragioni di orari adesso è anche molto da fare, perché lei saprà che dirige Emergency oltretutto, e quindi oltre agli altri compiti c'è pure questo che gli porta via la maggior parte del tempo, ma insomma sono tutti grandi firme e oltre che grandi amici nel mio caso che ogni tanto ruotano, poi ripeto con cadenze così da valutare. E va bene, comunque, allora d'accordo per Mura uno di questi giorni. Luca, provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. E niente, io volevo sapere, l'allenatore Ferrari che allenava ai suoi tempi l'Udinese, poi passato al Saragozza, se non sbaglio, in Spagna, cosa fa adesso? Allena ancora o si è ritirato dalla scena? Cos'è? Chi l'ha visto? Siccome mi piaceva come allenatore, intanto lui è delle sue parti. Lei mi chiama dalla provincia di Venezia, e da dove esattamente? Mestre, è buon. Enzo Ferrari è di San Donà di Piave, quindi vede che lontanissimi non siamo. Enzo Ferrari, per la verità, prima allenò il Saragozza e poi mi pare abbia la grande Udinese. No, forse ha ragione lei invece. Comunque stiamo parlando della metà degli anni Ottanta. Poi ha continuato ad allenare un sacco di squadre. L'ultima sua avventura conosciuta è stata la Triestina, la Triestina non questa disgraziata, ma la Triestina precedente, di cui è stato general manager e anche amministratore delegato, se non ricordo male, proprio fino allo scorso anno. Da lì me lo sono un pochino perso, lo ritroverò presto a Trieste e dintorni, perché è un altro dei fedelissimi eredi del Paron, e quindi le saprò essere più preciso in una prossima occasione. Grazie. Raffaele, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire che in parte lei già ha risposto a quando concerne la situazione del Napoli, ma io volevo aggiungere una cosa alle considerazioni giuste che lei ha fatto, due telefonate fa per essere preciso. In realtà io credo che la responsabilità e le colpe devono tutte quante ricadere sull'allenatore, il quale, se è arrivato a questo punto del campionato con giocatori stanchi o non più in condizioni di poter giocare, perché durante l'arco della stagione, indipendentemente se erano o no validi, è giusto quello che diceva lei, che non c'è un qualcuno che li carica al punto giusto da metterli sempre sulla corda, in modo che quando entrano possono dare quello che danno. Grava, essendo lui affezionato a questa squadra, è sempre pronto. Gli altri invece meno. È sempre allora, pronto, è sempre pronto, però ieri sera Grava un disastro, Raffaele? Io sto dicendo tranne ieri sera. Tranne ieri sera, ma capisce che non è così semplice, sai, non è che uno, io non voglio difendere Mazzarri, anzi non è proprio il mio genere, però non è che uno la carica, dice... La carica, cos'è la carica? Allora uno passa col tipo orologio, no? Passa di lì, gli dà due giri, tu giochi domani, sì, ti do un giro, no aspetta, quello non gioca, gliene do due, gliene do cinque o non gliela do. Non è così, è un gioco molto più sottile di saper tenere sulla corda, ma nello stesso tempo senza farli andare fuori giri. Ci sono allenatori che che scelgono assolutamente la strada dei titolari e delle riserve chiari, cioè delle gerarchie chiare, in maniera che non ci siano discussioni di sorta. Ci sono quelli invece che scelgono in maniera estemporanea e che premiano il grado di forma di un momento o dell'altro. Non c'è. Io credo che se Mazzarri un errore lo commette, visto che siamo su Mazzarri, però so se questo lei lo condivide, è di deresponsabilizzare i giocatori con tutti quei pianti greci che è sempre colpa degli arbitri. Tolto ieri sera, è sempre soltanto colpa di qualcun altro quando il Napoli perde. Questo significa deresponsabilizzare i giocatori, e poi i risultati magari sono anche questi. Umberto, provincia di Modena, buongiorno. Sì, buongiorno, mi piacerebbe proprio farle i complimenti per la trasmissione. Hai capito, bravo. Ascolti, 30 secondi, cerco di essere molto breve per non perdere tempo. La priorità è così. La Juventus, ma Napoli, suicidio a Londra, ma Londra è una bolgia. Consideriamo l'allenatore, che a me non è mai piaciuto, ma secondo me non ha tutte queste colpe. La rosa probabilmente non era sufficientemente larga per tutte queste competizioni, lo stadio di Londra che è di un certo tipo, ma io volevo sottolineare una cosa che non ha detto nessuno: la piazza di Napoli è una piazza particolarmente difficile per gestire una squadra a questi livelli. Passiamo alla Juventus, brevissimo, Del Piero, io ieri ho urlato come un pazzo, sono juventino, mi è piaciuto da morire, però per me, che sono amante prima del calcio e poi dei calciatori, il calcio ad alti livelli è fatto massimo per 15 anni. Penso che Del Piero abbia avuto, molto più di altri, tante occasioni per essere protagonista, è un campione, è una persona serissima, quello che vogliamo, ma se la gestione, come dice lei, a 15 minuti a partita viene fatta così, ci sarà un motivo. Conte non è uno stupido. Per rispondere al discorso di Mazzarri... Sì, e per rispondere a quei 30 secondi che lei si era autoritagliato all'inizio, a che punto facciamo scattare il cronometro, Umberto? Abbiamo finito, mi fermo col dire che Conte ieri sera si è lamentato dei pareggi fatti durante l'anno. Sì. Ecco, imparare da queste cose. Perfetto, grazie Umberto. C'è Hassan da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno dottore. Volevo dire solo la mia sul discorso della punizione. Sì, io le dico nel frattempo che non sono dottore e ho ripetuto più volte che non sono nemmeno infermiere, visto che oggi stiamo facendo le messe a punto. Comunque, dica. Niente, per la punizione, secondo me deve essere ripetuta quella punizione lì. Perché prima di battere, Pirlo stava chiedendo la distanza all'arbitro e parlava con l'arbitro, è partito Del Piero dal di dietro. Ho paura che Marchetti aveva ragione, secondo me. Marchetti ha detto questo, però Marchetti dice che non ha finito. Sentiamo Marchetti, ce l'abbiamo, sentiamo cosa dice Marchetti al volo. fischiato lì la punizione, ho chiamato un certo numero di uomini, se ne sono messi altri dei miei perché c'era, non si capiva niente, c'era un casino assurdo. E in più loro l'hanno allungata e per vedere chi calciasse, vedere la palla, mi sono accentrato un attimino. In quel momento lì lui ha calciato, quindi non ha avuto tempo di reazione. L'arbitro ha fischiato Hassan, ha regolarmente fischiato, se no stia pur certo che qualcuno, dato che la partita era già abbastanza tesa in quel momento, la Lazio si sarebbe inferocita. Così non è stato, è tutto assolutamente regolare. Grazie a Nicolò Rinaldi in regia, Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio a tutti.